voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Allegrini, il vino italiano che si sposa con l'arte, di Alessandra Tedesco. Ci sono famiglie che nascono con una vocazione e questa vocazione può durare secoli. La famiglia veneta Allegrini è legata alla terra e alla produzione di vino da oltre 400 anni. Anni in cui ha contribuito notevolmente allo sviluppo della Valpolicella come terra vinicola. L'azienda agricola Allegrini viene formalmente creata a metà 800, ma è solo un secolo dopo che inizia ad avere una struttura imprenditoriale di peso, come racconta Marilisa Allegrini. L'azienda Allegrini nasce ovviamente moltissimi anni fa, però diciamo che l'azienda come oggi è dovuta all'intuizione che ha avuto mio padre. Mio padre che negli anni 50 ha fatto la scelta qualitativa quando ancora non era una cosa scontata e soprattutto insieme alla scelta qualitativa ha capito che l'importanza per un'azienda come la nostra era quella di avere vigneti di proprietà. Quindi con grande intuizione, anche con molta lungimiranza, è andato ad investire in collina, acquistando questi terreni bellissimi che erano stati anche abbandonati, alcuni di questi, proprio perché la viticoltura era principalmente orientata alla quantità piuttosto che alla qualità, quindi collina voleva dire vigneti che dal punto di vista della manutenzione erano molto costosi e quindi erano stati abbandonati. E lui è andato ad acquistarli e quando poi lui è mancato ci siamo trovati con un patrimonio viticolo, diciamo, invidiabile. Inizia così la storia dell'azienda a Fumane, provincia di Verona. Da Giovanni Allegrini, che aveva dato la prima svolta imprenditoriale con le acquisizioni di terreni, la direzione nel 1983 è passata ai tre figli, Franco, Marilisa e Walter, scomparso purtroppo alcuni anni fa. Il gruppo comprende oggi quattro aziende distribuite fra il Veneto e la Toscana, con terreni che arrivano a 250 ettari. Noi abbiamo l'azienda della Valpolicella e abbiamo 100 ettari di proprietà, poi ne abbiamo un'altra parte fuori dalla Valpolicella che ci permette di fare un altro vino, sì, con un altro brand che si chiama Cortegiara. Poi abbiamo acquistato una bellissima realtà a Bolgheri e una a Montalcino. Quindi in totale diciamo che il nostro patrimonio viticolo è di 250 ettari, però in Valpolicella, nella Valpolicella classica, ne abbiamo 100 e questo è veramente una cosa abbastanza importante perché Valpolicella è un territorio abbastanza piccolo, la zona classica sono 4.000 ettari e quindi molto, molto parcellizzata, non ci sono proprietà estesissime. Poi la caratteristica nostra importante è che sono tutti terreni di collina, quindi di altissimo potenziale qualitativo. E dalla Valpolicella arriva il prodotto di punta di Allegrini, l'Amarone Classico DOC, pluripremiato a livello internazionale. Oltre all'Amarone vengono prodotti Valpolicella e Recioto, ma il gruppo produce anche altri tre marchi, come Cortegiara, Poggio al Tesoro e San Polo. Un'azienda, Allegrini, molto legata al territorio, ma con una fortissima vocazione all'export, come racconta ancora Marilisa Allegrini. Il fatturato di gruppo sono 27 milioni di euro, l'85% va all'estero, perché diciamo che l'azienda nasce così, storicamente abbiamo iniziato ad esportare prestissimo, abbiamo iniziato nel 72 e diciamo anche che la Valpolicella come zona non aveva un grande appeal in quegli anni e quindi è stato molto più facile seguire i mercati esteri perché erano quelli proprio che ci davano la possibilità di crescere e di poter poi reinvestire, ecco. E allora sentiamo in quali paesi il gruppo Allegrini esporta. Beh, intanto in tutta l'Europa e se mettiamo insieme tutti i mercati europei, chiaramente è il mercato fondamentale. Però poi se guardiamo il singolo mercato, abbiamo gli Stati Uniti e all'interno dell'Europa i paesi scandinavi, che sono quelli che in questi ultimi anni ci hanno fatto crescere molto. E poi diciamo che i mercati asiatici, vediamo che li dobbiamo guardare tutti insieme, perché non possiamo guardare al singolo mercato, no? Però i mercati asiatici stanno crescendo molto. Stiamo vedendo che il vino così come il cibo, così come il Made in Italy, sta diventando veramente uno status symbol, perché è rappresentativo dello stile di vita italiano, e lo stile di vita italiano è molto amato, apprezzato, desiderato, e quindi noi dobbiamo saper cogliere anche questo interesse che c'è, no? Che va al di là del prodotto, proprio perché come paese io credo che agli occhi dei consumatori rappresentiamo una cosa interessante. Di questo dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo essere anche molto orgogliosi. E l'Amarone Allegrini è diventato una bandiera del Made in Italy nel mondo, anche perché è stato scelto come Vin d'Honneur dall'Ermitage di San Pietroburgo, uno dei musei più prestigiosi a livello internazionale. Questo vuol dire che per i prossimi 5 anni, a partire dai festeggiamenti per i 250 anni del museo, durante le celebrazioni ufficiali dell'Ermitage, alle delegazioni russe e straniere verrà servito l'Amarone Classico DOC 2009 con un'etichetta speciale. Nell'accordo con l'Ermitage è prevista anche la collaborazione per realizzare iniziative culturali a Villa della Torre, una villa del Cinquecento acquistata da Allegrini nel 2008 con l'intenzione di puntare sul binomio vino-arte, cosa già fatta con il Guggenheim di New York e Venezia. Il perché di questo impegno nella cultura ce lo spiega sempre Marilisa Allegrini. Io credo che intanto, per prima cosa, le aziende che vanno bene hanno un dovere verso la società, verso quello che ricevono, devono anche un po' restituirlo, no? E quindi in questi anni in cui la cultura è sotto pressione, perché ci sono, vediamo, sempre più tagli, eccetera, il fatto di dimostrare sensibilità, secondo me, è una cosa interessante. E comunque noi siamo entrati in questo mondo dopo che abbiamo fatto questa acquisizione di Villa della Torre, che è una villa molto bella, uno dei monumenti più importanti del Rinascimento italiano, che si trova in Valpolicella ed è opera di 3 architetti importanti, Giulio Romano, Michele San Micheli e Bartolomeo Ridolfi. E questo ci ha dato una sensibilità diversa, e quindi siamo entrati in contatto con Guggenheim. Mi è piaciuto molto il loro payoff, il payoff di intraprese, di queste imprese che sostengono il museo. L'arte ispira l'impresa, l'impresa fa vivere l'arte, e questo credo che sia esemplificativo di quello che noi possiamo dare all'arte e quello che l'arte ci dà. E io credo che sia molto di più quello che l'arte ci dà di quello che noi diamo all'arte. E poi, secondo me, anche abbracciare questo concetto di arte ci mette di fronte ai nostri consumatori in modo molto curioso e interessante, perché fa capire che non vogliamo solo fare profitto rispetto a quello che facciamo, ma vogliamo anche sostenere delle cause importanti. In generale, l'andamento del gruppo Allegrini è stato positivo, ma ovviamente la crisi degli ultimi anni si è fatta sentire. I momenti difficili, che poi si sono rivelati in realtà una opportunità, per me è stato il 2008 con la crisi finanziaria, perché io mi sono sempre tenuta molto lontana dal mondo della finanza, proprio perché a me piace l'economia vera, reale, concreta. E questa è una cosa che mi ha tramandato mio padre, perché mio padre amava la terra, e quindi questa mi è rimasta nel sangue, no? E nel DNA, io credo. Allora, negli anni 2000, dal 2000 al 2007, noi abbiamo fatto degli investimenti importanti in Toscana con Poggio al Tesoro a Bolgheri e San Polo a Montalcino, contando su mercati che funzionavano in una determinata maniera. La crisi finanziaria ha spiazzato quello che è per me l'intuito che un imprenditore deve avere, nel senso che un imprenditore, se investe, se è bravo, considera, fa le proprie considerazioni, quindi si prende il suo rischio imprenditoriale. La crisi finanziaria mi ha fatto capire che non era così, e che quindi avevamo delle variabili che non erano più sotto il nostro diretto controllo. E questo credo che sia un freno vero a ulteriori investimenti, perché secondo me ci ha spiazzato un po', no? Diciamo che agli inizi del 2009 abbiamo visto che c'erano dei cali di fatturati pazzeschi. Quindi io mi sono rimboccata le maniche, ho cominciato a viaggiare più di quello che facevo di solito e soprattutto ho investito anche in risorse umane di persone che potevano andare in giro per il mondo a promuovere i prodotti così come facevo io. Perché la cosa che mi era apparsa subito chiara era che non dovevamo chiuderci in noi stessi, ma gli importatori, i nostri partner commerciali dovevano sentirsi sostenuti e quindi con la vicinanza, proprio sentendoci partner, ovviamente il primo prodotto che andavano a proporre, o uno dei primi insomma, nel loro portafoglio era proprio quello su cui si sentivano supportati. Quindi già il 2009 è finito in modo positivo, nonostante i primi mesi fossero stati molto difficili. E poi quello che abbiamo visto è che, un po' anche perché abbiamo cominciato a commercializzare anche i prodotti delle altre aziende, quindi non è stata solo la crescita di Allegrini, ma quello che abbiamo visto è che in 4 anni noi abbiamo raddoppiato il nostro fatturato. Quindi vuol dire che questo essere vicini ai mercati è stato sicuramente importante. La parte critica di quello che invece vediamo è che ovviamente dobbiamo essere sempre più competitivi e la competitività non ci viene da aumenti di fatturato, ma ci viene da controllo dei costi e quindi questo è un po' l'altra faccia della medaglia. Di certo la marginalità si è ridotta. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.